vento mi portò laggiù. E se la memoria non mi inganna, all'angolo ti presentasti tu. Quelli erano giorni, sì, erano giorni, e tu al mondo non puoi chiedere di più. Noi ballavamo anche senza musica, nel nostro cuore c'era molto più. La gente ci segnava con il dito, dicendo guarda la felicità. Quelli erano giorni, oh sì, erano giorni, e tu al mondo non puoi chiedere di più. E ripensando mi vieni un nano qui, e se io canto questo non vuol dire la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Poi si sa col tempo anche le rose un mattino non fioriscono. E così andarono le cose, il buon vento non soffiò mai più. Oggi sono tornata in quella strada, un buon ricordo mi ha portata là. Stavo in mezzo a un gruppo di persone e raccontavi cari amici miei. Quelli erano giorni, sì,